repressione, strapotere economico, costi inaccessibili, sessismo, razzismo, competizione spietata. Se per te lo sport finora è stato solo questo, la mischia ti racconta tutto il resto. Della trasmissione, ma il bello della diretta, diciamo, insomma, però insomma. Speciali e ci controllano con i cellulari. Prova. E ci bombardano con gli aeroplani tutti i giorni col petrolio ci se pulimo le mani. Niente può cagnarsi non si prima dopo. E allora proviamo ad andare in onda finalmente con la mischia dopo aver risolto, rimesso a posto alcune piccole cose, insomma, tra nostra poca attitudine alla tecnologia e cambiamenti dell'interfaccia della radio, chiediamo perdono e adesso insomma ci avviamo, come stavamo provando a dire in apertura una decina di minuti fa, a intanto offrirvi la registrazione di uno stralcio di intervento di intervista che ci hanno rilasciato gli ultras del Clapton dopo l'iniziativa di venerdì alla Sapienza, iniziativa che era un po' il preambolo del festival del prossimo fine settimana in ricordo di Valerio Marchi. È un'iniziativa molto interessante, anche partecipata, e che insomma cerchiamo di sintetizzare un po' in questa intervista, di cui appunto questo è un primo stralcio. Poi nelle prossime settimane ve ne offriremo una versione integrale e montata. Siamo negli studi di Radio Onda Rossa con gli Ultras del Clapton dopo l'iniziativa che si è svolta al Tre Serrande. Prima domanda che ovviamente facciamo loro è: chi sono, cosa fanno e insomma perché si trovano qui? We're a group of supporters who follow a local team in Forest Gate in East London. Siamo un gruppo di tifosi che supporta una squadra locale a Forest Gate nella Londra, nell'est di Londra. We've been following this team as Clapton Ultras since 2012. We're a group of supporters who organise around our local football team to try and make our team a community space that's affordable and accessible to our community. Seguiamo il Clapton dal 2012 e cerchiamo all'interno del, appunto, del TIFO organizzato per lo stesso di creare uno spazio che sia confortevole per la comunità. I think that's a pretty good description. We work with various local organisations within our community to make sure that football is something that everybody can do. It doesn't matter about how much money you have, what gender you are, or sexuality, or race, or what job you do. Cerchiamo di creare un tifo che sia per tutte e tutti, quindi che non dia importanza a qual è il tuo genere, la tua razza, qual è il lavoro che fai, insomma, i soldi che ricevi. That you can enjoy football. We try and do that as much as possible, and that's really important to us. E quello che è veramente importante per noi è creare uno spazio confortevole per tutte e tutti per appunto godere del calcio. Oltre a appunto supportare il Clapton, quindi fare dei cori, andare alle partite, fare le trasferte, eccetera, eccetera, siete impiegati in molte attività sociali, come avete appena menzionato. Quali sono le attività sociali che fate? So we organize regular food banks for local one local organization that supports refugees and migrants specifically. E è molto importante perché non ci sono altri appunto banche del cibo a cui essi possono attingere, così le ha definite, e quindi lo facciamo prima di ogni partita. Because they have no other access to food banks, so that's very important, and it happens for every home game. There's no other organisation that does this work, so it's very important that somebody does it. And as ultras, it's our we have to do it. Other things that we do, each match game, we may do a bucket collection to try and raise money for a specific cause, or a banner in solidarity for something. If sisters or brothers somewhere else have had a difficult time, we will show support. E è molto importante perché non ci sono altri appunto banche del cibo a cui essi possono attingere, così le ha definite, e quindi lo facciamo prima di ogni partita. Insomma, cerchiamo di dimostrare solidarietà per fratelli e sorelle, ovunque essi siano, che appunto sono in difficoltà. Yes, so from game to game it's reactive. We're not primarily there to support the team. We're there to be visual in our community, we're there to show pride in our community. If something happens we need to show solidarity with, then that's will happen reactively game to game. Cerchiamo di essere non solo tifo ma anche una comunità, quindi cerchiamo di fare tutte le cose che appunto una comunità dovrebbe fare e dimostrare solidarietà e attiva in quest'ambito, e per esempio una di queste cose sono le già menzionate raccolte di cibo. Stuff like ongoing food bank collections is something that we do just to kind of to try and support like people who live nearby and people who have kind of economic problems. E poi cerchiamo anche di appunto supportare le persone in situazioni economiche difficili, anche quando si tratta insomma dei nostri vicini. There are people within our support who have those same economic problems, so yeah, that's basically like what we're like. I've run out of things to say. Sorry. Before the games, we run a club for young children, young supporters, called the Fitti Ultras. So they range between about 3, maybe, I think. E poi cerchiamo anche di appunto supportare le persone in situazioni economiche difficili, anche quando si tratta insomma dei nostri vicini. To about 10 or 11, very young children. So we try and do activities with them occasionally as well, maybe about once a month, some sixth form students will come to the games as well, and we also do solidarity tickets. So if somebody cannot afford to go to a game, or if it's a group of people that have struggled for whatever reason, we raise money specifically to buy their tickets for them so that they don't have to pay. E ci sono insomma attività con questi bambini e bambine prima che appunto si svolga la partita. A volte ci sono anche gli studenti che vengono e in più organizziamo delle collette per permettere a chi ha problemi economici di entrare senza pagare. Ok, e invece riguardo le questioni di genere, quindi il fatto che la curva sia molto una curva arcobaleno e una curva al femminile, e cosa si può aggiungere su questo tipo di tifo? So when I first started coming to Clapton, I was very lucky because there were very few people going and nobody treated me different because I was a woman. Appena ho iniziato ad andare alle partite del Clapton sono stata molto fortunata perché praticamente erano le prime partite a cui c'era un tifo ed eravamo molto pochi a partecipare. Nobody said to me, oh, but do you really like football? People just knew that because there were so few of us going, that football was important to me as a woman as well. It didn't matter, gender wasn't an issue. They weren't testing me on my knowledge because I'm a woman. Appena ho iniziato ad andare alle partite del Clapton sono stata molto fortunata perché praticamente erano le prime partite a cui c'era un tifo ed eravamo molto pochi a partecipare. Part of that, as we've seen support grow over the years, is making sure that doesn't happen to other women, and also to make sure that women and people of different sexualities feel confident to go to a game, because you go to the bigger games in professional football, so that's Premier League, like down to, you know, the Football League, Premier League down to League Two, and further below as well. You hear sexist comments, you hear homophobic stuff. It's not necessarily aimed at you, but if you care about these issues, it affects you and you think. E comunque andare al Clapton permette a tutte di sentirsi accolte e non come accade invece nelle serie maggiori, in particolare nella Premier League, ma anche nelle altre, dove chi appunto partecipa ai giochi, più che a giochi, scusate, alle partite, si sente commenti sessisti e omofobi intorno a sé, e anche se non è toccato in prima persona da quella tematica, comunque si ritrova a dover appunto a sentirsi in qualche modo minacciato o minacciata. Do you know, I'm not welcome here, like they don't know what my sexuality is, like what if that was aimed at me, like how do they know that I'm not a lesbian, that I'm not bisexual, that I'm not trans, like all these things like that can make you feel uncomfortable. E comunque andare al Clapton permette a tutte di sentirsi accolte e non come accade invece nelle serie maggiori, in particolare nella Premier League, ma anche nelle altre, dove chi appunto partecipa ai giochi, più che a giochi, scusate, alle partite, si sente commenti sessisti e omofobi intorno a sé, e anche se non è toccato in prima persona da quella tematica, comunque si ritrova a dover appunto a sentirsi in qualche modo minacciato o minacciata. So with the Clapton Ultras, it was extremely important to make sure that everybody can enjoy it, like no matter about these issues. So I think the women in Clapton have a very strong voice, have one of the strongest voices amongst organizing groups that I can think of that I've been involved in. Le donne hanno una forte importanza, hanno una delle rappresentanze più forti che ho visto rispetto ai vari gruppi. And it's something that's been very inspirational. I think it's also given a lot of women like a lot of confidence, which is something that, you know, I'm very proud of. I'm proud to be a part of, and something that I think, yeah, actually women can make a difference in this sport that is played by men. E una cosa di cui sono veramente orgogliosa è che le donne nel Clapton abbiano insomma una forte voce e che possano fare la differenza in uno sport maschile, che quindi abbiano voce le donne in uno sport appunto maschile. Which is great. The sexuality issue is a bit more difficult because you can't we don't wear badges saying like what gender we are, like what sexuality we are, but the point is in the scaffold where we stand in the cover, if anybody does or says anything that's sexist or homophobic or transphobic or racist or anything like that, they have the support of everybody else who is there to call that person out, to call these these remarks out. They will have that support and feel supported, and that's the most important thing, like feeling supported. If you're made aware of like a comment, you'll be supported, and that's important as an ultra. E ovviamente sulla sessualità è molto più complicato, ovviamente, perché non si capisce di primo acchito di che sessualità una persona sia, ma quello che posso dire è che nella scaffold, nella curva, se ci sono persone che si possono sentire giudicate da alcuni commenti o altro, c'è tutta la curva che le supporta nel, appunto, nel contrastare questo tipo di commenti sessisti o omofobi. E questo era uno stralcio, appunto, un primo stralcio dell'intervista che avrete poi anche in formato integrale. Adesso, diciamo, uno stacco musicale che rende onore alla città che ha dato i natali al Clapton, così come a tante altre cose, e poi la nostra, il nostro primo collegamento. Boys and girls, London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania is putting the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. The imitation zone. Forget it, brother. You can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice coming, the sun's zooming in, engines stuck on it, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning. Ben ritrovati di nuovo sulla Mischia. E dicevamo, un momento in cui tocca ricordare un po' di impegni che ci sono stati, un po' di impegni che ci saranno, che tendono a portare comunque il cercare di dare le linee per quello che sarà lo sviluppo di un anno importante e denso per lo sport popolare. Abbiamo già parlato in precedenza nelle settimane passate con i rappresentanti dell'Abruzium Cosenza, di, appunto, dell'incontro nazionale che si svolgerà nella città silana. Adesso sentiamo il punto di vista delle palestre popolari con Oscar, che abbiamo in linea. Ciao Oscar, ci sei? Ciao, ci sono, buonasera a tutti. Buonasera anche a te. Dunque, allora, noi abbiamo già sentito parlare, dicevamo un incontro nazionale, insomma, per cercare di riannodare tutti i fili del discorso sempre più vasto che sta diventando lo sport popolare in Italia. Sì, abbiamo organizzato questo meeting nazionale il 21, 22 e 23 ottobre, che si farà qui da noi a Cosenza presso la palestra e la box popolare, e anche presso il centro sociale Rialzo, i compagni Rialzo, insomma una cooperazione per rilanciare un po' il discorso sullo sport popolare, ma anche e soprattutto per cercare di fare rete, questo è l'obiettivo, o meglio questa è la speranza sostanzialmente, con realtà simili alle nostre che non si occupano necessariamente di sport di combattimento, di pugilato, ma che intendono appunto lo sport in una maniera diversa, che non è appunto commerciale, che ha uno sguardo particolare verso le aree del disagio delle nostre contrade periferiche, quindi che può essere il disagio delle periferie, dei migranti, ma anche il disagio psicologico, insomma, e quindi un modo diverso appunto di intendere lo sport. Speriamo che tutto questo venga bene, insomma, che soprattutto ci siano i presupposti per una collaborazione futura con le altre società e realtà che verranno a Cosenza in quei giorni. Perfetto, parlavamo appunto della palestra popolare. Una volta che ci siamo, magari vuoi parlare ai nostri radioascoltatori, raccontare un po' di quello che è una delle principali realtà, delle prime proprio realtà storiche, soprattutto nel sud Italia, che hanno portato una determinata visione dello sport nel nostro paese. Sì, allora guarda, te la faccio breve. Siamo nati ufficialmente nel 1999, però i lavori che portarono alla nascita della prima palestra, perché poi ce n'è stata una seconda, sono del 98. Nasce per volontà di quattro persone, io e altri tre cari compagni, insomma, che molti venivano da esperienze universitarie, come spesso accadeva in quegli anni fuori. Qualcuno di noi aveva iniziato il pugilato in altre città e abbiamo deciso appunto di riaprire il centro sociale Gramna di Cosenza e all'interno di questo farvi una palestra. Fu un lavoro terribile perché quel luogo era fatiscente, però noi tutti eravamo attaccati a quel luogo, un po' perché aveva segnato appunto la nostra adolescenza, per me in modo particolare, ma soprattutto gli anni di militanza. La rimettemmo in piedi e bisogna dire che la città ci ha subito dato un grosso riscontro da questo punto di vista, perché la partecipazione fu subito immediata e siamo rimasti lì, insomma, fino al 2007, se non ricordo male, 2008, quando poi letteralmente la palestra crollò, nel senso che parte appunto dello stabile, appunto fatiscente, ebbe un crollo, e quindi dopo una lunga contrattazione appunto con il comune e con l'istituzione siamo riusciti a farci assegnare appunto uno stabile all'interno dello stadio San Vito di Cosenza. Ovviamente nessuno ci regala niente, abbiamo un contratto di locazione, paghiamo tutto, insomma, nulla vogliamo, questo sia ben chiaro, insomma, però le nostre origini sono appunto le origini di un centro sociale, per intenderci. Col tempo siamo cresciuti molto, è cresciuta l'area tecnica, perché appunto il nostro modo di intendere lo sport popolare non è quello, per intenderci, di birra e cazzotti, ma è anche una forma appunto di professionalità, tra virgolette, insomma, che vogliamo offrire, per cui i tecnici che lavorano alla box popolare sono tecnici a tutti gli effetti, riconosciuti dalla Federazione Pugilistica Italiana, ma sono anche dei compagni e dei militanti di varie aree. E quindi è cresciuta l'area tecnica, sono cresciuti gli utenti e da qualche anno a fianco appunto alle classiche attività sportive che si fanno in palestra abbiamo iniziato anche a fare delle attività più culturali, come la presentazione di libri, momenti di socializzazione, dibattiti e via dicendo, insomma. Per il momento sono 17 anni che va così e va bene, insomma. Questo in breve, ecco. Dicevi, insomma, sicuramente momenti come quello dell'assemblea che ci sarà possono essere utili proprio anche per certo, una crescita nell'analisi di soprattutto l'ultima parte del discorso che facevi, insomma, su come intendere poi lo sport popolare a livello di... Esattamente, i punti che penso che toccheremo, poi ovviamente noi non caliamo nulla dall'alto. No, certo, ma sono i punti, direi, che su cui un po' tutti certo, si stanno interrogando, ognuno magari a modo suo. Sicuramente pensiamo di trattare, insomma, anche il tema sicuramente degli spazi, no? In una città come la nostra abbiamo diversi spazi sportivi abbandonati che meriterebbero appunto una sorte migliore, ma anche e soprattutto con la questione delle periferie, dove non c'è nessuno spazio sportivo, no? O comunque un semplice spazio dove i ragazzi, i bambini, noi facciamo molti corsi anche per i bambini, insomma, possono trovarsi e incontrarsi. È un modo appunto anche per mettere insieme le realtà di un quartiere disagiato, ad esempio. E poi non neghiamolo, insomma, noi speriamo anche di superare la questione dello sport, tra virgolette, no? E di fare rete appunto con realtà di militanza anche su territori, diciamo, non prettamente sportivi, che possono essere appunto la questione del reddito, la questione della casa per tutti, insomma, la questione soprattutto del diritto di cittadinanza agli immigrati che vengono tesserati nelle nostre palestre. Insomma, sono tentativi, speriamo, insomma, che possano portare a qualche risultato. È un percorso lungo, intendiamoci, accidentato, noi ci crediamo, comunque vale la pena fare la prova, no? Bene, e per chiudere puoi darci già un programma dell'iniziativa, poi si troverà, sì, anche online, immagino. Il programma inizia con il 21, con l'accoglienza, abbiamo avuto già diverse adesioni da questo punto di vista, insomma, ed è tutto dislocato tra il 21 e il 23, tra la box popolare e il centro sociale Rialzo. Ovviamente sarà nostra premura poi accompagnare i compagni e gli amici delle altre associazioni appunto in uno o nell'altro luogo. Inizia appunto con un'assemblea appunto il venerdì, dove ci conosciamo e iniziamo a buttare un po' le basi appunto di, speriamo, un progetto più grande, comunque di una semplice condivisione, per poi arrivare al sabato, dove ci saranno appunto gli stage di kickboxing, soprattutto, dove verranno delle persone titolatissime, sento di dire, soprattutto da Roma, le partite di calcio tra le squadre che aderiscono appunto allo sport popolare, che hanno dato la loro adesione alla manifestazione, per poi concludere la domenica con una oltre con un momento appunto di convivialità e ludico, insomma, che è il pranzo insieme, ma soprattutto con una grande assemblea definitiva, diciamo, su quanto è stato fatto e su quanto ancora si potrà fare. Ovviamente la sera ci saranno cene, concerti, insomma, momenti appunto per parlarsi e stare assieme. Beh, benissimo, io direi che ti ringraziamo e ci risentiremo sicuramente con voi di Cosenza, insomma, con qualcuno di voi, con più di uno di voi, nel momento dell'assemblea, poi per sentire proprio un po' dal vivo quello che ne è venuto fuori. E quindi, insomma, a risentirci molto presto, io ti ringrazio. Grazie. Un saluto, grazie, Oscar. Ciao. Ciao. Ciao. Thank you. ed eccoci di nuovo in onda e abbiamo il nostro secondo collegamento con quello che è dopo questo pezzo dei Buzzcocks. Andiamo a intraprendere con Napoli, dove, come vi avevamo detto, c'era un appuntamento veramente bellissimo, veramente importante per quello che è il calcio popolare, il calcio antirazzista, insomma il calcio dal basso nel nostro paese, perché c'era il derby nel campionato di promozione, il campionato più alto finora mai raggiunto dalla squadra di calcio popolare, il derby tutto napoletano tra Quarto Grad e Afro Napoli United. E anticipo il risultato, che è da stamattina a disposizione anche su internet, che è stato di 2-2, ma insomma ci facciamo raccontare da una nostra voce ormai affezionata, e a cui siamo soprattutto noi affezionati, come è andata sia la partita sul campo, ma anche insomma tutta la giornata di festa vera e propria. Buon pomeriggio, presidente, ci sente? Ciao, come va? Noi bene. Senti, vai, raccontaci tutto. Noi purtroppo non siamo riusciti poi a venire per i casi della vita, e quindi ci affidiamo alla tua voce. Vabbè, ma è al ritorno. Verrete al ritorno? Magari anche sì. Niente, oggi abbiamo... Purtroppo il tempo non ci ha aiutato. È stato un clima ostile la giornata di oggi, per cui non siamo riusciti a riempire gli spalti come è il nostro solito fare. La partita, lo sapevamo, era una bella partita. Noi conosciamo i compagni della tifoseria dell'Afro Napoli da una vita, e i rapporti sono decennali ormai. Sicuramente era una partita molto attesa, visto che l'Afro Napoli è eliminata da 3 vittorie consecutive ed è una delle squadre forse più attrezzate per vincere il campionato. Devo dire che abbiamo disputato un tempo per uno, perdevamo 2-0, abbiamo pareggiato 2-2 il secondo tempo con un clamoroso errore sotto porta il nostro attaccante allo scadere del crucifisso. È stata una bella partita, tutto sommato purtroppo il terreno di gioco del nostro comunale, come voi sapete, non permette di fare un grande calcio. Gli spazi, abbiamo fatto uno striscione condiviso contro il piano rifiuti regionale, perché si intendono loro di Mognano, Chiaiano, e noi di Quarto abbiamo condiviso nel tempo le varie battaglie contro discariche e la devastazione ambientale, e ci siamo divertiti. Beh, questo sì, questo è l'importante, in fin dei conti è il vero successo di questa nuova visione allo sport. Presidente, qual è l'obiettivo del Quarto Grad invece, venendo in questioni prettamente tecniche? Guarda, io penso che sia una buona squadra, possiamo puntare playoff, lo dico senza nessun problema. Secondo me arriveremo in zona playoff. Ve lo auguriamo, è quello che vi augura tutta la redazione. Grazie. Eh sì, noi insomma contiamo, visto che abbiamo bucato questo appuntamento, di tornare al più presto. Purtroppo appunto ci dici che le condizioni atmosferiche hanno un po' condizionato quello che poteva essere veramente un momento anche di grande colore, di grande partecipazione, ma non mancherà occasione di rifarlo, insomma. No, sicuramente non mancherà occasione, anche perché quest'anno ci saranno anche delle partite particolari da questo punto di vista, probabilmente troveremo anche delle compagini con tifoserie di destra, e quindi ci stiamo attrezzando anche per affrontare questa nuova sfida che fino ad oggi non si era mai verificata nel calcio popolare. Ah sì, e questo sicuramente aggiungi un tassello direi più che interessante, e insomma ci terremo aggiornati a maggior ragione in questo caso. Sicuramente. E per adesso ti salutiamo, insomma comunque complimenti per l'ottimo punto contro quella che finora era la capolista del campionato. Un abbraccio. E niente, ci sentiamo prestissimo. Un saluto a tutti i ragazzi di Quarto, ragazzi delle ragazze. Lo farò. Un abbraccio sulla reazione. Grazie. E noi insomma omaggiamo la città di Napoli in qualche modo, che è in grado di regalarci sfide sportive di un livello veramente altissimo, il livello massimo che forse si tocca per adesso nello sport popolare, e insomma questo è un piccolo omaggio.

Giuseppe, amico di sempre, racconta. Mi aveva telefonato entusiasta di questo motore. Pino, la macchina vola! Le hanno boicottato la macchina. Anche lì a momenti si ammazza. A un certo punto la macchina non frenava più. L'ambiente delle corse era un ambiente ostile per una donna pilota che dimostrava di poter avere buoni risultati. Quando hanno visto che poteva piazzarsi perché a metà gara era già al terzo posto e aveva anche superato le due McLaren, le hanno sabotato i freni. I mass media hanno dato poco spazio alle gesta di Lella. Forse a livello locale è uscita qualche notizia, ma a livello nazionale proprio no. In Inghilterra invece hanno molte informazioni. La chiamavano la tigre di Torino. Nel 1988 si ritirò dalle corse. Da 2 anni aveva iniziato a lottare contro un tumore. Dopo aver affrontato la prima operazione era corsa in Spagna con i punti ancora freschi per disputare un'altra gara. Purtroppo quest'ultima battaglia non è riuscita a vincerla. Lella Lombardi, all'età di 51 anni, moriva a Milano il 3 marzo 1992. Il nostro tuffo nel passato finisce qui, ma vi aspettiamo domenica prossima con altre vite e altri traguardi di atlete che hanno fatto e continuano a fare la storia dello sport femminile. Da Chiara e Silvia non è mai tutto, ma cercate di farvelo bastare, almeno fino a domenica prossima. Allora, torniamo in studio. Intanto mi scuso a nome della redazione, l'automobilista, non motociclista, Lella Lombardi. Colpa nostra, diciamo, nel trascriverci le informazioni, uno di quei passaggi comunicativi che saltano, cose del genere. E, intanto, rapidamente, perché ci avviciniamo alla conclusione, i risultati del calcio popolare di oggi. Abbiamo parlato nel collegamento di quarto grado Afro-Napoli United 2-2, sempre in promozione l'Abruzzo in Cosenza, purtroppo conferma l'inizio difficile, perde 2-1. Le Boschi in prima categoria invece torna al successo in trasferta per 1-0. Andiamo in seconda categoria dove la Cipozzo pareggia 1-1 fuori casa, e poi iniziano le cattive notizie, perché sempre in seconda categoria esordio dell'Atletico San Lorenzo, sconfitto per 2-0. In terza categoria la frazione calcistica Dal Pozzo perde in casa per 3-2. La San Precario, guardando il calendario, dopo una prima di campionato giocata la settimana scorsa, ha una sorprendente seconda di campionato il 21 ottobre. Insomma, siamo rimasti anche noi un po' interdetti, ma sembra sia così. E la Spartak Capuane, che dopo un inizio positivo viene un po' catapultata nella cruda realtà, perché perde in casa per 4-0. E vabbè, insomma, ci sarà modo di rifarsi. Adesso diciamo che chiudiamo con un po' di appuntamenti per grosso modo il prossimo fine settimana e dintorni. Sì, dicevamo che è un periodo in cui ricomincia la stagione, quindi ricominciano gli appuntamenti a sprombattuto. Il prossimo fine settimana ne segnaliamo 2 in particolare, di cui uno ci riguarda, cioè entrambi ci riguardano da molto vicino. Uno, mi riferisco al Festival delle Controculture dedicato a Valerio Marchi nell'anno del decennale della sua scomparsa, che si terrà appunto l'8 e il 9 ottobre, di cui magari parleremo meglio tra poco, e l'altro, se lo dice... Allora, il sabato prossimo c'è un evento importante anche per Radio Onda Rossa, un concerto al Centro Sociale Spartaco. Insomma, vi vado a illustrare rapidamente il programma: una cena vegan dalle ore 20, dalle 21.30 proiezioni contro il circo con gli animali, e poi dalle 22.30 un concerto punk con Repressione, Light the Bob e Kalashnikov Collective. Quindi ripeto, sabato 8 dalle 20 in poi cena e concerto, CSO Spartaco, via Selinunte 57, Quadraro. E appunto, sempre il medesimo fine settimana, qui invece più da queste parti, il Festival in onore di Valerio Marchi tra San Lorenzo, il sabato tra il Sally Brown e le strade di San Lorenzo, la domenica con la partita, con il triangolare, il trofeo del calcio popolare, e tutta la giornata che poi finirà al Cinema Palazzo nel tardo pomeriggio. E detto questo, direi che possiamo darci appuntamento alla prossima volta, scusandoci ancora per qualche piccolo problema tecnico iniziale, ma insomma adesso sembra tutto risolto, sembrava aver capito una volta per tutte, e niente, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo fine settimana. Un saluto a tutti e a tutte. Potere economico, costi inaccessibili, sessismo. Repressione, strapotere economico, costi inaccessibili, sessismo, razzismo, competizione spietata. Se per te lo sport finora è stato solo questo, la mischia ti racconta tutto il resto.